E torniamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, quando sono da poco passate le 11:30 di mattina. Siamo in compagnia di Giulia, del coordinamento cittadino di Lotta per la Casa, con la quale andremo a fare una breve panoramica su quello che sta succedendo in questo momento in città, dopo lo sgombero, dopo il tentativo appunto di sgombero della caserma di Via Papareschi e verso l'incontro di domani mattina. Ciao a tutti, buongiorno. Sì, siamo alla vigilia, diciamo, di un altro appuntamento con l'amministrazione comunale. Appunto, ci sarà l'incontro con l'assessore alla casa Antoniozzi domani mattina alle 10 presso appunto l'assessorato di Via della Moletta in zona Air Terminal, dopo appunto una settimana di tendopoli con appunto decine e decine, insomma più centinaia potremmo dire, di famiglie in emergenza abitativa che sono state tirate fuori con la forza dall'ultimo tentativo di occupazione effettuato appunto sulla caserma di Via dei Papareschi in zona Ponte di Ferro. Tra l'altro possiamo mandare un saluto anche a chi oggi andava a ricordare, insomma, la strage di donne che è avvenuta appunto a Ponte di Ferro. Diciamo che appunto la questione delle caserme è diventato un punto di rimente, di contrasto tra i movimenti di lotta per il diritto all'abitare e l'attuale amministrazione comunale, nonostante appunto il progetto di privatizzazione e di vendita nell'ottica della valorizzazione delle caserme fosse stato già impostato e largamente, insomma, condiviso anche dalla precedente amministrazione. Diciamo che, per spiegare sinteticamente quello che vogliono fare, si tratta di spostare questo immenso patrimonio di appunto 15 tra forti, aree militari, caserme, tutte inserite all'interno del raccordo anulare, spesso in zone centrali e di grande pregio, come appunto quella di Via dei Papareschi, che sta, insomma, vicino ai mercati generali, agli ex mercati generali, ma potremmo parlare di quelle a Viale Angelico, in zona Giulio Cesare, potremmo parlare, insomma, di tante e tante altre, e spostarle appunto dal patrimonio della difesa ad una società chiamata Difesa SPA, compartecipata da appunto Ministero della Difesa per l'80% e Comune di Roma per il 20%. Il meccanismo sarebbe, insomma, molto simile a quello delle cartolarizzazioni che hanno visto passare il patrimonio degli enti pubblici dentro queste scatole finanziarie chiamate SCIP 1, SCIP 2, che appunto avevano più o meno lo stesso obiettivo, quello di mettere questo patrimonio immobiliare dentro una società finanziaria in modo da rendere immediatamente quantificabili in qualche modo appunto i capitali, tant'è che nel bilancio di Roma Capitale l'anno scorso Roma, invece di ricevere l'ormai canonico contributo per Roma Capitale che si aggira intorno ai 500-600 milioni di euro annui, ha ricevuto questo pacchetto delle caserme. Ora, il discorso qual è? Il discorso è che appunto questo patrimonio viene messo in vendita con una piccola particolarità, che il Comune di Roma associa al prezzo di vendita anche la possibilità di andare in deroga tramite speciali accordi di programma, cambi di destinazione d'uso facilitati, in deroga alle previsioni del piano regolatore generale, in deroga alle necessità urbanistiche dei territori, e quindi concedendo al migliore offerente la possibilità di realizzare i progetti più disparati, ovviamente i progetti più redditizi per i privati che avanzino proposte. E quindi, insomma, il via libera fondamentalmente ad alberghi di lusso, a nuovi centri commerciali, a nuove residenze private, anche demolendo in toto architetture di pregio, luoghi della memoria come per esempio il Forte Boccea, dove da anni numerosi comitati, associazioni del territorio chiedono l'istituzione di un museo della memoria, perché era il luogo appunto dove avvenivano le fucilazioni dei partigiani nel periodo, insomma, dell'occupazione nazista, eccetera. Un'operazione quindi tutta orientata e senza più neanche, insomma, mascherarla all'accaparramento di risorse, accaparramento di risorse che avverrebbe ai danni della città, sulla quale verrebbero calate le conseguenze in termini di impatto urbanistico di queste nuove opere, i cui proventi invece andrebbero alla città solo per una minima parte. Abbiamo detto appunto il 20% del valore finanziario dell'operazione e pochi spicci rispetto alla realizzazione dentro queste opere di spazi e servizi pubblici. La battaglia che facemmo durante l'approvazione della delibera riguardava proprio questo, insomma, la possibilità di aumentare dentro i nuovi progetti la quota di pubblico che sarebbe appunto rimasta pubblica, battaglia sulla quale ovviamente c'è stata una chiusura fortissima, non si è voluto prevedere la costruzione di case popolari in questi spazi o appunto la percentuale di servizi pubblici, diciamo, è rimasta intorno al 20% di quelle che saranno le nuove superfici realizzate. Quindi una manovra ovviamente terribile da rigettare in toto, una manovra che tra l'altro è destinata al fallimento, come hanno fallito le SCIP 1 e SCIP 2 che sono costate poi alla fine, dovevano portare chissà quanti soldi con la vendita del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali e invece sono costate di fatto agli enti stessi circa 1,7 miliardi di euro, insomma, quindi operazioni totalmente in perdita. Non ci fidiamo di queste operazioni finanziarie, non crediamo che Roma debba essere, insomma, continuamente cementificata e aggredita a favore dei soliti palazzinari e dei loro interessi. Crediamo invece che questa delle caserme sia un'occasione unica e irripetibile per riappropriarci di un immenso patrimonio pubblico al momento in disuso e per utilizzarlo per quello che sono realmente le esigenze della città. E non ultima, per esempio, appunto la questione che adesso si pone, insomma, all'attenzione di tutti, che è quella dell'accoglienza di quanti vengono, insomma, dalla Tunisia o dalla Libia, da cui finalmente si riesce a uscire, insomma, dopo anni in cui, grazie alla gestione degli accordi italo-libici, insomma, i migranti che attraversavano la Libia venivano costretti, come ben sappiamo, a rimanere in dei lager nel deserto, vittime di torture e quant'altro. Allora oggi questo patrimonio dovrebbe essere aperto per assecondare appunto tutte queste esigenze, mentre appunto da un lato Alemanno rifiuta di accogliere anche su Roma una parte, insomma, di questo di questi diciamo 20.000 profughi che sono arrivati, perché appunto lamenta la presenza di problemi interni già da risolvere legati ai richiedenti asilo e quant'altro, dall'altro su questo fronte non fa nessun passo in avanti, insomma, dalla storia della buca degli afghani a Via Ostiense, dove ciclicamente ritornano centinaia di giovanissimi, tra l'altro gli afghani che stanno lì sono per lo più minorenni, 15-16 anni, e adesso vivono neanche più in quella che era la buca dove adesso sorgono i nuovi palazzi di Papillo, ma proprio sui binari della ferrovia, insomma, che porta all'Air Terminal. Ma potremmo citare la storia dei somali, potremmo citare la continua emergenza rom, sui quali vengono spesi milioni e milioni di euro ogni anno per demolire campi spontanei che poi si riformano, e non un euro viene speso invece per politiche e misure di assistenza alloggiativa, di diritto all'abitare, anche nei confronti di persone che ormai sono nate, cresciute in questa città, eccetera. Quindi diciamo la battaglia è una battaglia molto ampia e molto forte nei confronti di questa amministrazione comunale, che si è candidata lanciando cifre tipo 50.000 nuove case popolari e che poi, insomma, ha ormai quasi 3 anni di distanza dalla sua elezione, ha portato in 3 anni appunto 300 nuove case popolari, cifre assolutamente ridicole rispetto a quelle dell'emergenza abitativa, che su Roma si parla di 6-8.000 sfratti l'anno tra quelli richiesti e quelli eseguiti. Si parla di 2.000 famiglie con 10 punti in graduatoria, calcolate che il bando per fare richiesta di case popolari è chiuso da più di un anno, e quindi oggi chi viene sfrattato non può, non solo non prenderà mai casa perché le case non le fanno, ma neanche può presentare legittimamente richiesta, perché appunto il bando è chiuso e non si possono fare domande. E questa situazione appunto richiede da parte di tutti, i movimenti di lotta del diritto all'abitare fanno la loro parte, una risposta molto forte. Evidentemente però l'amministrazione comunale non lascia passare, insomma, senza colpo ferire questa opposizione sociale sempre più numerosa, sempre più forte, che ha anche trovato, grazie a battaglie come quella dei Movimenti Uniti contro la crisi sotto la Regione Lazio, come quelle di Roma Bene Comune, che uniscono, insomma, le varie vertenze lavorative, sociali e politiche, insomma, contro l'amministrazione comunale, dentro un'unica, appunto, rete di solidarietà, di scambio di informazioni e di organizzazione di lotte. E l'atteggiamento, insomma, repressivo che ha messo in campo nella giornata, appunto, di venerdì di due settimane fa, quando 2500 cellerini sono venuti da Roma, da Napoli, pronti a sgomberare non solo la caserma appena occupata, insomma, il giorno prima, ma dispiegando, appunto, blindati intorno ad altre, a numerose altre occupazioni recenti o anche più consolidate della città, in una minaccia ovviamente inaccettabile, legata, appunto, all'esistenza stessa in qualche modo dei movimenti che occupano gli stabili pubblici in questa città. Mi sembra si possa anche dire che, insomma, questo atteggiamento probabilmente proviene da una traduzione che il questore Tagliente fa in termini proprio di gestione dell'ordine pubblico, di indicazioni che ovviamente vengono da quei pezzi di maggioranza che noi sappiamo bene essersi ben poco ripuliti rispetto a un loro recente passato di estrema destra, insomma, senza citare i soliti Lucarelli di cui tutti conosciamo bene i precedenti e che oggi ricopre, insomma, una delle cariche più alte dell'esecutivo comunale, insomma, ma potremmo parlare dei vari Santori, presidente commissione sicurezza, dei vari Cassone che vengono, insomma, riciclati nel PDL, ma vengono dai movimenti, insomma, di Casa Pound e quant'altro. E quindi questa maggioranza, chiaramente allergica all'esistenza dei movimenti e di chi si batte per un diritto per tutti, tira fuori le unghie e i denti, si appella direttamente al ministro La Russa e fa arrivare l'ordine, insomma, di una repressione molto dura e molto pesante. Nonostante, appunto, fossimo circondati in quella mattinata di oltre 20-25 blindati che si erano posizionati, appunto, a Piazzale della Radio, pronti allo sgombero, siamo riusciti a tenere in piedi un margine di trattativa per ore, costringendo in qualche modo l'assessore Antoniozzi, che sicuramente si è anche prestato, ritagliandosi, diciamo, un ruolo di mediazione all'interno di questa situazione. Siamo però riusciti, insomma, a farlo venire direttamente in loco, ad incontrarlo in un centro anziani immediatamente di fronte alla caserma occupata e in qualche modo ad ottenere gli impegni su cui adesso stiamo monitorando grazie alla Tendopoli e alle mobilitazioni che, appunto, anche domani ci riporteranno a scendere in piazza in massa, vigilando sull'approvazione della delibera. Una delibera che rientra nei vari punti all'ordine del giorno concordati con il sindaco stesso il 21 febbraio scorso, quando il sindaco, incontrando i movimenti, si era detto assolutamente interessato e impegnato in prima persona nel risolvere l'emergenza abitativa attraverso una serie, appunto, di interventi centrali. Da un lato, appunto, la riapertura del bando per le case popolari, dall'altro un tentativo di fare, insomma, un'operazione di sospensione degli sfratti, anche quelli per morosità, perché, insomma, gli ricordavamo che a Roma la problematica maggiore non è quella degli sfratti per finita locazione, che all'interno del decreto mille proroghe comunque sono stati, diciamo, sospesi almeno per quanto riguarda le categorie protette, ma la vera piaga riguarda, appunto, gli sfratti per morosità, quella che noi definiamo morosità incolpevole, perché giustamente viene da un contesto economico in cui vediamo che gli affitti costano il 70, l'80, a volte il 100, il 130% dei redditi che poi riusciamo a mettere insieme alla fine del mese, insomma, e quindi una situazione assolutamente insostenibile se pensiamo che per esempio istituti come il CNEL parlano di un canone giusto e sostenibile quando è commisurato intorno al 30% dei redditi medi. Quindi stiamo parlando che per la generazione 1000 euro dovremmo pagare 300 euro di affitto e ovviamente nessuno li trova questi affitti in città, semmai un posto letto in doppia costa 300 euro, insomma. Bene, torniamo in diretta. Io ti volevo chiedere un pochino, secondo te, dove adesso andrà a parare questa giunta, come ci raccontate, una giunta che è nata già in campagna elettorale con delle parole d'ordine anche chiare sull'emergenza abitativa, no? Si parlava appunto di case, di 50.000 case popolari, è una giunta che ha retto anche molto dal punto di vista della costruzione del consenso su una serie di sparate del sindaco su questi temi, sulla vivibilità della città, su nuove edificazioni, insomma se ne contano ormai veramente a decine, il Gran Premio alle isole di Dubai a Ostia, a Torbella Monaca, a Giardini Prenzlin in tangenziale, ricordarle tutte sarebbe difficile. Sparate che però per quello che riguarda i primi 3 anni della giunta hanno, come ci hai giustamente raccontato te, nascosto più o meno il nulla, il deserto dell'iniziativa politica vera e propria. Ci hai raccontato anche di come i movimenti si siano messi su una prospettiva complessiva che è quella che la giunta sembra non essere neanche in grado di prendere in considerazione, già che sembra procedere di tamponamento in tamponamento, mettendo una pezza da una parte e dall'altra. Quindi io ti volevo chiedere, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, da una parte Alemanno che si appresta a dover chiudere il suo mandato a Roma, anche rilanciando probabilmente sulla politica nazionale la sua persona, dall'altra i movimenti che spazi vedono, visto che l'amministrazione sembra così sorda. Sì, beh, sicuramente l'amministrazione sta utilizzando questo giochetto delle grandi opere, dei grandi piani, dei grandi progetti che insomma abbiamo denunciato contestando frontalmente insomma tutta l'operazione degli Stati Generali di Roma, in cui Alemanno ha invitato insomma le massime cariche della politica ma anche dei poteri economici, insomma, svelando a chi ancora non l'avesse capito insomma che ovviamente la politica oggi non è altro insomma che la gestione degli interessi dei grandi gruppi, molto molto distante da quelle che sono invece le esigenze reali di chi la città la vive. È chiaro quindi che bisogna recuperare uno spazio autonomo, indipendente dalla politica, di costruzione appunto delle alternative e di trasformazione del presente a partire appunto da noi e dalle nostre iniziative di riappropriazione. In questo senso mi viene in mente insomma la splendida esperienza della caserma occupata, dell'unica delle 15 caserme che insomma è occupata da più di 7 anni, che ha proceduto, insomma, in cui le persone che ci vivono, gli occupanti, hanno proceduto a dei lavori di recupero davvero eccezionali, che hanno trasformato un luogo invivibile in più di 100 case, oltre a costruire spazi sociali che prossimamente anche inaugureremo. E insomma, a Porto Fluviale, che sabato scorso ha ospitato la presentazione di un film dal titolo Goodbye Roma, dove buy ovviamente è il verbo inglese comprare, e quindi insomma una Roma messa in vendita, a cui si oppongono persone che strappano metro dopo metro appunto i loro diritti e la possibilità di una vita più dignitosa di quella che queste istituzioni ci vorrebbero prospettare. È chiaro che insomma i momenti di contrapposizione ci saranno, sicuramente già la rete Roma Bene Comune, che insomma si continua a vedere, sta ipotizzando per il momento dell'approvazione del bilancio, che sarà insomma prossimo, tra i prossimi appuntamenti dell'amministrazione comunale, una serie di mobilitazioni, una serie di iniziative, perché di nuovo ci racconteranno la storiella del bilancio lacrime e sangue, mentre tutti i giorni leggiamo sui giornali di quante somme vengono regalate, insomma, nella lottizzazione, nei vari scandali di Parentopoli, Ama, Atac e quant'altro, quando invece poi i lavoratori di queste strutture vivono con salari precari, contratti più o meno regolari e sempre insomma molto incerti, appunto. Quindi sicuramente una mobilitazione in questo senso. Sicuramente continuerà anche la mobilitazione appunto sul tema delle caserme, sul quale insomma noi chiediamo che si torni indietro rispetto alla delibera attuale, e sicuramente ancora dobbiamo però continuare a confrontarci su nuove strategie di attacco, perché chiaramente l'occupazione per me, per noi insomma, rimane un momento centrale di riappropriazione, volendo anche sempre più difficile da consolidare, nel senso, negli ultimi anni ormai prima di portare a casa un'occupazione ne dobbiamo fare 3-4 che vengono puntualmente sgomberate, si passa appunto per lunghe tendopoli eccetera, dopodiché possiamo immaginare di mettere in campo altri strumenti, sia legati più direttamente al diritto all'abitare, sia anche a questa problematica dell'uso, dello sfruttamento intensivo da parte del capitale, dei meccanismi finanziari del territorio, e quindi insomma della rendita fondamentalmente, privilegi insomma sui diritti edificatori e quant'altro, che non vengono mai contestati ai costruttori, neanche laddove appunto ci siano delle esigenze così forti e così pressanti dal punto di vista sociale. E su questo inviterei anche tutti a partecipare, in particolare insomma ad un workshop che terremo, insomma ad un momento assembleare che terremo all'interno degli Stati Generali appunto sul tema precarietà e territori, dove di nuovo incontreremo gli attivisti del No Expo, che stanno preparando per giugno sull'area di Ro, insomma, dove appunto verrà costituito l'Expo 2015 di Milano, un climate camp, quindi insomma appunto un campeggio tutto ecosostenibile, no oil, eccetera. Così come appunto i movimenti contro i rifiuti in Campania, così come tante altre situazioni che si battono contro le grandi opere, i grandi eventi, i compagni dell'Aquila, di cui appunto si celebra in questi giorni appunto la ricorrenza. E per immaginare appunto sia campagne che partano dai territori per riaffermare la propria sovranità dal basso sui territori contro lo scempio che ne fanno appunto i grandi capitali finanziari, sia potremo ragionare nella suggestione anche appunto dello sciopero precario e di tutte quelle mille forme di attivazione che i precari possono inventarsi per sottrarsi al ricatto della precarietà stessa, che è una precarietà che abbiamo detto tante volte va ben oltre il semplice ambito lavorativo, per cui proveremo a lanciare delle campagne, per esempio come quella dello sciopero dell'affitto, dicendo, insomma, raccontando a tutti che è possibile rifiutarsi e sottrarsi, insomma, alla trappola del contratto al nero, fondamentalmente, che la maggior parte dei proprietari di casa ci impongono, e che, insomma, facendolo si può arrivare a risparmiare anche il 60-70% di quello che spendiamo per l'affitto. Quindi parleremo di sciopero dell'affitto, così come parleremo di diritto all'insolvenza, perché un'altra piaga che ovviamente andiamo sempre di più riscontrando è quella per cui le istituzioni europee e nazionali finanziano, impegnandosi con grandi manovre, il risanamento delle banche. Poi se c'è un povero Cristo precario che prende un debito di 10.000 euro e non riesce a restituirlo, quella persona è bollata per tutta la vita come cattivo pagatore, in particolare se ti capita di insomma in qualche modo incappare in Equitalia Gerit, che c'ha il monopolio pubblico della riscossione del credito, ti trovi di fronte, insomma, atteggiamenti anche insopportabili, gente ti imbocca dentro casa, ti leva tutto per magari due multe non pagate, insomma, questo ovviamente è ampiamente documentato e deve cominciare a nascere anche una risposta dal basso contro questi abusi che quotidianamente viviamo e che devono cominciare a essere percepiti sempre di più come intollerabili, insopportabili. Quindi diamoci gli strumenti per organizzare, appunto, la rabbia precaria che cova, e ovviamente, appunto, invito tutti sia al workshop Precarietà Territori che in generale ad attraversare, appunto, gli stati generali della precarietà, che si svolgeranno a Roma il 15, 16 e 17 aprile prossimi. Va bene, noi ti ringraziamo, ci andremo sicuramente poi a sentire domani nel corso della giornata per sapere come prosegue la tendopoli e la trattativa con l'amministrazione, e ti facciamo in bocca al lupo a voi e a tutti gli occupanti. Grazie, Gravi. Thank you.